Restiamo animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Buongiorno, siete nuovamente all'ascolto di Restiamo Animali, la trasmissione per vivere, pensare e agire cruelty free, puntata numero 427, nella quale parleremo di biodiversità calante, deforestazione crescente e macellazione a domicilio. Speriamo di avervi incuriositi. Kelly, la giovane pitbull molto probabilmente usata per allenare altri cani a combattere e gettata poi in un dirupo morente a San Felice a Cancello in provincia di Caserta in Campania con il corpo pieno di ferite aperte, lividi, escoriazioni, cicatrici e fratture. Utilizzata per combattimenti clandestini, i suoi proprietari molto probabilmente si sono sbarazzati di lei quando ormai era arrivata allo stremo delle forze. Kelly, battezzata così dai volontari che l'hanno ritrovata il 3 aprile e portata immediatamente in una clinica, non ce l'ha fatta, nonostante le cure che le sono state prestate. La sua morte però non deve essere inutile, anche per Kelly, in nome di Kelly, la sensibilità collettiva deve indurre chissà qualcosa a parlare, a denunciare. I combattimenti clandestini sono una barbarie che non deve e non può essere ulteriormente tollerata. Quotidiano Le Monde in Francia la scorsa settimana è stato pubblicato un articolo intitolato La catastrofe della biodiversità, che descrive una situazione allarmante e mette in evidenza la pericolosità del peggioramento della qualità del suolo e del declino delle specie viventi. Secondo la piattaforma intergovernativa scientifico-politica sulla biodiversità, l'IPBES, le principali cause di questo degrado sono gli agenti chimici utilizzati in agricoltura, quindi insetticidi, erbicidi, fertilizzanti sintetici, e le immense monocolture di soia e di mais. Negli ultimi 15 anni in Francia è scomparso il 30% degli uccelli a causa dell'agricoltura intensiva. In Europa il mondo degli insetti ha perso in totale l'80% del suo patrimonio di biodiversità negli ultimi 30 anni. Fino ad oggi la perdita di biodiversità è stata considerata una questione marginale, ma non è così e non è esagerato sostenere che in gioco c'è anche la sopravvivenza della specie umana. Più volte, ogni persona animalista dovrebbe essere anche ambientalista, in quanto non c'è animale che possa sopravvivere alla distruzione o all'impoverimento del suo habitat. Per questo ci sembra importante parlare di un appello firmato da 250 professori di zoologia assieme a massimi esperti di selvicoltura, geologia, difesa del suolo, idraulica forestale, diritto ambientale, con il quale viene chiesto al presidente Mattarella di non firmare il decreto legislativo in materia di foreste e filiere forestali, recentemente approvato dal Consiglio dei Ministri in un periodo tra l'altro politicamente delicato, con le massime cariche dello Stato ancora vacanti. Questo nuovo testo unico delle foreste parte dalla premessa paradossale e contraria all'evidenza scientifica che le foreste abbiano necessariamente bisogno di una manutenzione, ossia di essere soggette a tagli, all'apertura di strade e ad altri interventi per prevenire il dissesto idrogeologico e gli incendi. Dichiara questo l'ecologo forestale Gianluca Piovesan, professore ordinario di selvicoltura e uno degli artefici del riconoscimento delle faggete secolari italiane come patrimonio dell'umanità dell'UNESCO. Si torna indietro di secoli con principi gravissimi, continua Piovesan, come l'articolo che consente alle regioni di procedere al taglio forzoso di boschi privati se il proprietario li lascia invecchiare. È una norma sconcertante, concorda il botanico ed ecologo Alessandro Chiarucci, professore ordinario a Bologna, noto a livello internazionale per i suoi studi sulla biodiversità. Sembra davvero grave, oltre che infondato dal punto di vista scientifico, equiparare boschi che hanno superato il turno ai terreni agricoli abbandonati. I boschi, infatti, a differenza delle colture agrarie, sono sistemi autosufficienti che, se lasciati indisturbati, progrediscono verso una struttura più complessa e producono benefici ambientali crescenti. Tra l'altro, con gli attuali prezzi irrisori della legna, dove si prenderebbero i soldi per sostenere questa strana economia forestale sovietica, si stupisce Fabio Klauser, decano dei forestali italiani. L'appello è stato sottoscritto da ricercatori e professori emeriti che studiano gli ecosistemi forestali da Bolzano a Catania. Ed è un testo strettamente scientifico, estraneo ad ogni riferimento elettorale. Viene chiesto al governo di non approvare il decreto e al Presidente della Repubblica di non firmarlo, perché non è fondato su basi scientifiche ed è dannoso per le foreste. Anche l'associazione Medici per l'Ambiente, ISDE Italia, e il gruppo di ricercatori e scienziati di Energia per l'Italia hanno espresso la loro profonda preoccupazione per i rischi connessi alla salute che comporta il progetto di incrementare il taglio della legna per puntare su centrali di energia a biomasse. Tale pratica, infatti, comporta l'aggravio dell'inquinamento atmosferico con ricadute negative sulla salute di tutti i viventi, animali umani e non umani. Continueremo a seguire questa spinosa vicenda. Intanto andiamo a tavola, grazie alla consueta rubrica di cucina cruelty free a cura del tosco vegan chef Gabriele Palloni. Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà. Se con l'intervento di Camilla ci siamo addentrati in boschi e foreste, già che ci siamo, approfittiamone per raccogliere una bella cesta di bruscandoli, conosciuti anche come asparagi selvatici. In pratica sono i germogli del luppolo selvatico. Li cuoceremo in un infuso di spezie per creare una salsa con la quale condire i bigoli, spaghettoni di pasta fresca fatti in casa. Gli ingredienti per i bigoli con i bruscandoli per 4 persone sono: per la pasta 280 g di farina di frumento, 100 g di farina di ceci, 150 ml di acqua, mezzo cucchiaino di curcuma in polvere, un cucchiaio di olio extravergine di oliva e del sale. Per la salsa, noce moscata, cannella, anice, chiodi di garofano, 100 g di bruscandoli, una cipolla bianca, 2 cucchiai di olio extravergine di oliva. Iniziate preparando i bigoli. Sciogliete la farina di ceci con poca acqua e olio extravergine di oliva fino ad ottenere una crema. Disponete la farina a fontana, aggiungete il sale e la curcuma e al centro versate il composto di farina di ceci. Lavorate aggiungendo poca acqua alla volta, poiché dovrete ottenere una pasta più consistente e asciutta rispetto alla normale pasta fresca. Impastate bene e fate riposare 30 minuti avvolgendo la pasta nella pellicola. Se disponete di un apposito torchio, passate la pasta con questo, oppure aiutatevi con un tritatutto che abbia un disco con buchi piuttosto larghi, circa 3 mm di diametro. Dovrete ottenere una sorta di spaghettoni. Adagiate i bigoli su una spianatoia spolverata con semola, facendo attenzione che non si attacchino l'uno con l'altro. Thank you. frattempo preparate un infuso con noce moscata, cannella, anice e chiodi di garofano. Lasciate in infusione per una decina di minuti, quindi filtrate. Adesso preparate la salsa. Sbucciate e tritate la cipolla. Fatela scottare in un tegame con poco brodo vegetale o acqua e quando il liquido si sarà ritirato aggiungete 2 cucchiai di olio extravergine di oliva. Fate rosolare per un paio di minuti, unite i bruscandoli che avrete precedentemente pulito e privato della parte finale, quella più dura, quindi tagliato a pezzetti. Portate a cottura bagnando con l'infuso e lasciando a fiamma bassa. Lessate i bigoli in abbondante acqua salata. Scolate, conservando parte del liquido di cottura che userete nel caso la pasta dovesse risultare troppo asciutta, e conditeli nel tegame con i bruscandoli. Nel resto del mondo contro lo sfruttamento degli animali scende in piazza la Danimarca. Sabato 31 marzo, in contemporanea nelle 2 più grandi città danesi, Copenaghen e Aarhus, centinaia di persone hanno dato vita al primo corteo per i diritti degli animali in Danimarca. A Copenaghen il punto di partenza è stata la Piazza Rossa di Nørrebro e hanno partecipato tra le 300 e le 400 persone. Tra i promotori l'ex modella Kira Eggers, che immaginiamo sia un po' il corrispettivo della nostra Carmen Russo, attiva da anni in campagne per i diritti degli animali. Combattiamo per proteggere i più deboli, che vengono maltrattati per utilità e profitto dagli esseri umani, ha affermato questo Thomas Eriks, co-organizzatore della marcia. Purtroppo dalla Danimarca arrivano anche notizie molto meno incoraggianti. Sembra infatti che la Danimarca abbia intenzione di costruire un muro per non far passare i selvatici nel tentativo di proteggere i suoi animali di allevamento. Sarà una recinzione lunga 70 km al confine tra la Danimarca e la Germania a tentare di arginare il transito dei cinghiali selvatici e con essi la diffusione della peste suina africana, una malattia innocua per la specie umana e per gli altri animali, ma mortale per i suini e molto pericolosa per il mercato della carne. La malattia infatti è mortale in quasi tutti i casi entro 10 giorni e non esiste un vaccino. Molte persone con questa notizia hanno scoperto che i maiali di allevamento, quelli che vengono usati per produrre prosciutti e würstel, sono in realtà dei cinghiali opportunamente manipolati dall'uomo e che senza l'intervento umano il maiale che conosciamo noi non esisterebbe e tornerebbe a essere un cinghiale. La diffusione della peste suina africana si sta avvicinando alla Danimarca causando preoccupazione in un paese in cui le esportazioni di suini ammontano a 5,5 miliardi di dollari all'anno. L'accordo tra il governo e il Partito Popolare Danese, suo alleato, include anche maggiori incentivi ai cacciatori, che avranno la possibilità di cacciare i cinghiali giorno e notte. Il mese scorso la Germania ha emanato un decreto per consentire ai cacciatori di sparare ai cinghiali tutto l'anno per fermare il rischio di questa terribile epidemia. L'argomento evidenziato dai media è sempre la perdita economica. Nessuno ovviamente pensa all'agonia degli animali, sia quelli selvatici che quelli rinchiusi negli allevamenti. I sintomi della peste suina sono febbre, vomito, congiuntivite, diarrea emorragica ed emorragie cutanee con interessamento in particolare dell'addome, delle cosce, del grugno e delle orecchie. voglia di approfondire la questione della peste suina africana e abbiamo scoperto che la Sardegna è l'unica regione italiana colpita da anni dal flagello della peste suina africana. Nonostante massicci interventi, la Sardegna non è ancora riuscita a debellare questo virus. Oggi la Sardegna alleva 150.000 maiali ed è un numero, a sentire l'assessorato all'agricoltura della regione sarda, esiguo, perché se la Sardegna riuscisse a sconfiggere la peste suina africana avrebbe un potenziale enorme. Da 150.000 maiali potrebbe crescere fino a 1 milione di capi. A Orgosolo, poche settimane fa, sono stati abbattuti 215 suini perché trovati senza controlli sanitari, non registrati e di proprietà ignota. Nell'ambito della lotta alla peste suina africana, infatti, è vietato in tutto il territorio della Sardegna il pascolo brado non confinato, una pratica che favorisce la continua diffusione della malattia. Pertanto, 215 animali che potevano anche essere sani sono stati abbattuti a scopo preventivo. Caution now, the world he said was over. A caution where we were. Caution where we were. Dalla Danimarca passiamo a livello europeo. Anche il commissario europeo per la salute e la sicurezza alimentare, Andriu Kaitis, ha riconosciuto il ruolo dei cacciatori nel rilevare e combattere le patologie che colpiscono la fauna. Negli ultimi 10 anni, ha affermato Andriu Kaitis, è stato dimostrato molto chiaramente che la salute degli animali d'allevamento è possibile solo attraverso una gestione seria e coerente della fauna selvatica, elemento essenziale per combattere, controllare e sradicare le principali malattie come l'influenza aviaria, la rabbia, l'afta epizootica e la peste suina classica. La soluzione proposta è dunque alzare i muri e abbattere gli animali, soluzioni che non hanno l'aria di essere molto serie né molto efficaci, a meno di voler credere in una totale estinzione dei cinghiali selvatici. In un mondo senza allevamenti, senza lo sfruttamento economico della carne, probabilmente il problema dei cinghiali selvatici non sembrerebbe altrettanto grave. Andiamo in Francia, dove è in corso un acceso dibattito sulla sofferenza degli animali negli allevamenti e nei macelli, e dove il film Petit Paysan, un eroe singolare, parla proprio di un allevatore che cerca di proteggere i suoi animali da un'epidemia e che arriva a violare la legge pur di salvarli e di salvarsi. In Francia, un allevatore della Côte d'Or ha deciso di utilizzare un macello mobile per macellare il suo bestiame direttamente in fattoria. L'obiettivo è limitare lo stress degli animali. Sappiamo che in Francia in questo momento i macelli sono nel mirino di gruppi per i diritti degli animali come L214. Ma come si pongono i gruppi che fanno del benessere animale il loro slogan di fronte alla morte dignitosa proposta dai fruitori dei mattatoi mobili? Nella nostra fattoria a Les Ligniers facciamo tutto il possibile per garantire che i nostri animali siano allevati nelle migliori condizioni. Ma uccisione e trasporto sono fonte di stress per loro. Per limitare questo stress, evitare trasporti deplorevoli e prendersi cura dell'animale fino all'ultimo istante della vita, c'è il mattatoio mobile, composto da 2 camion che trainano 2 rimorchi, e questa piccola struttura mobile si propone di garantire, sotto la supervisione di un veterinario, un omicidio rispettoso della dignità dell'animale. Sono ammessi per questo tipo di macellazione però solo aziende agricole in cui i bovini sono ben trattati, non OGM e nutriti in modo sano. La carne sarà poi venduta con il marchio Le Bœuf Éthique, il bovino etico. Ma può un omicidio essere rispettoso? Questa è la nostra domanda. Certo, è difficile parlare di rispetto per l'animale quando lo fai nascere e lo allevi per ucciderlo. Ma i consumatori di carne che hanno denaro da spendere possono acquistare con la carne marcata etica un valido motivo per continuare a mangiarla, in quanto prodotta secondo criteri di sostenibilità, mettendo così a tacere la propria coscienza e sperando che la carne sia migliore anche da un punto di vista salutistico. Basteranno i macelli mobili a mettere a tacere il dibattito sulla sostenibilità etica della carne? Seguiremo gli sviluppi futuri della questione. Mobi, ancora di Mobi si parla, come direbbe Salvo Montalbano, che di vegan ha solo i capelli. Parliamo ancora di Mobi perché dona l'intero ricavato degli incassi del suo ristorante veg di Los Angeles, Little Pin, a sostegno di associazioni che si battono per la difesa dei diritti degli animali, ma non solo. Anche tutti i proventi che verranno dall'uscita dell'ultimo album Everything is Beautiful and Nothing Hurts, pubblicato lo scorso 2 marzo, andranno ad associazioni che si battono per i diritti degli animali. Tra le associazioni che Mobi sostiene attualmente ci sono Mercy for Animal, Human Society, Human League e naturalmente l'immancabile PETA. Quindi, se ancora amiamo dischi, CD o vogliamo fare un regalo che sia piacevole e utile, ricordiamoci che quest'album di Mobi, oltre un piacere per le nostre orecchie, darà anche un aiuto a queste associazioni che lottano per la difesa degli indifesi. E per titillare la vostra voglia di acquistare il CD, molti degli sacchetti musicali sono estratti da questo ultimo album e ora un ascolto un po' più corposo è dedicato alla canzone The Ceremony of Innocence, tanto per restare in tema. Buon ascolto e buon acquisto. There was a dark in all this. There was a darkness I liked, passing on the sails or dawn, dancing on the sails and the gong. I bought this, brought it for you. I brought the sight, I brought the light, I brought the time you wanted. I brought it like a savior, and I knew what I couldn't do. Drowning like a savior, and I knew what I couldn't do. So much I can never do. Dedichiamo alla condizione degli animali nel mondo di oggi il nostro spazio letterario della settimana. Il libro che proponiamo è stato scritto dalla psicoterapeuta Anna Maria Manzoni e la recensione è a cura degli editori indipendenti Troglodita Tribe. Noi abbiamo un sogno, riflessioni ed emozioni nel rispetto degli animali, di Anna Maria Manzoni, edizioni Bompiani, tascabili, pagine 92, euro 6,50. Con questo breve testo, Anna Maria Manzoni ci fornisce un'indagine psicologica e sociologica della diffusa ed accettata brutalità nei confronti degli animali. Analizzando e decodificando i processi che la caratterizzano, dà corpo a quel sogno che è anche il titolo di questo libro, arrivare al punto in cui la crudeltà verso gli animali venga considerata abietta anziché normale e scontata. Perché in sostanza si tratta della medesima violenza e della medesima ingiustizia. è oramai sodato da studi sempre più accurati che gli adulti aggressivi, nella maggioranza dei casi, sono stati bambini crudeli con gli animali. Si tratta di una violenza fine a se stessa che scaturisce dal desiderio di contrastare la monotonia, ricercando il brivido e il divertimento che, in breve, porta alla perdita di sensibilità e al sadismo. Scopriamo allora che la violenza nei confronti degli animali è normalmente accettata soprattutto perché siamo ancora lontani dal considerarli individui, persone portatrici di valori. Come ovvia conseguenza, la società non condanna questi atteggiamenti, consentendo di perpetuarli. Questa mancanza, poi, caratterizza anche le religioni che, da millenni, ritualizzano e sostengono il sacrificio e la strage di animali, da sempre considerati privi di anima. Ne risulta, quindi, una sorta di inconsapevolezza perché, attraverso leggi e precetti, tutto questo viene regolamentato. Appare, quindi, non solo possibile, ma anche giusto e indispensabile. Basti pensare alla vivisezione e a come l'atto di torturare a morte un animale venga considerata una professione rispettabile. In questo contesto, che ci deresponsabilizza sempre di più, allora, secondo la Manzoni, occorre riappropriarsi della nostra capacità critica, perché è proprio l'abitudine ad accettare tutto questo che porta alla perdita della sensibilità, alla rassegnazione, alla rimozione e alla negazione dell'orrore, anche quando è evidente, quotidianamente sotto i nostri stessi occhi. Solo così sarà possibile continuare a perseguire un sincero ideale di giustizia che sia comune a tutte le specie. E le difficoltà sono tante, perché gli strumenti per acquietare questa capacità critica sono potenti e raffinati. La pubblicità, ad esempio, riesce, senza troppe difficoltà, ad indurre quelle dinamiche di scissione che ci consentono di tenere vivo un atteggiamento affettuoso verso gli animali mentre siamo invitati a mangiare i loro stessi corpi. E più la realtà è raccapricciante e più viene coperta da tenerezza e musichette allegre condite da slogan assonanti e divertenti. Si auspica infine una maggiore attenzione all'unicità di ogni animale e all'importanza, quindi, di passare dalle nostre considerazioni collettive a quelle individuali. Il caso di un singolo animale fuggito dal macello e visto in televisione, ad esempio, è in grado di mobilitare e smuovere la nostra coscienza e la nostra sensibilità proprio perché riusciamo ad inquadrarlo con un nome ed una storia, riusciamo a sentire la sua paura, la sua sofferenza e il suo desiderio di vivere. I diritti d'autore di questo libro saranno interamente devoluti al centro istituito in Asia che si occupa degli orsi sottratti da quelle fabbriche che li tengono immobilizzati per l'intera vita, mentre con un catetere viene da loro estratta la bile per ottenere shampoo, afrodisiaci e medicamenti. Sito di riferimento animalasia.org. Siamo in chiusura, vi saluta la nostra redazione al completo che è composta da Elisa Moretti, Roberta Marino, Francesca De Matteis, Lorenzo Guadagnucci, Gabriele Palloni, Gianni Ferrarotti, Giuseppe Coco e da Camilla Lattanzi che vi ha tenuto compagnia durante questo viaggio. L'appuntamento con la puntata numero 428 della nostra trasmissione è tra una settimana esatta, meno 30 minuti, stesse onde, stessa ora. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.